era stata, per ordine del cardinale, trasportata in un monastero di Milano, che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata, e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia, la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove, a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia, domandando del padre Cristoforo a tutti i cappuccini che poté vedere nel lazzeretto, sentì, con più dolore che meraviglia, che era morto di peste. Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di sapere qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare, come diceva, un atto del suo dovere se qualcuno ne rimaneva. La vedova la accompagnò alla casa, dove seppero che l'uno e l'altra erano andati tra quei più. Le tre donne rimasero un pezzetto a discorrere, a concertarsi sulla maniera di prendere Don Abbondio. E finalmente andarono all'assalto. «Son qui loro», disse questo tra sé, ma fece faccia tosta. Gran congratulazioni a Lucia, saluti ad Agnese, complimenti alla forestiera. Le fece mettere a sedere e poi entrò subito a parlare della peste. Volle sentir da Lucia come l'aveva passata in quei guai. Il lazzeretto diede opportunità di far parlare anche quella che l'era stata compagna. Poi, come era giusto, Don Abbondio parlò anche della sua burrasca. Poi de gran mirallegri anche ad Agnese, che l'aveva passata liscia. La cosa andava in lungo. Già fin dal primo momento le due anziane stavano alle velette, se mai venisse l'occasione d'entrar nel discorso essenziale. Finalmente, non so quale delle due ruppe il ghiaccio. Ma cosa volete? Don Abbondio era sordo da quell'orecchio. Non che dicesse di no, ma eccolo di nuovo a quel suo serpeggiare, volteggiare e saltar di palo in frasca. Bisognerebbe, diceva, poter far levare quella catturaccia. Lei, signora, che è di Milano, conoscerà più o meno il filo delle cose, avrà delle buone protezioni, qualche cavaliere di peso, che con questi mezzi si sana ogni piaga. Se poi si volesse andare per la più corta, senza imbarcarsi in tante storie, già che codesti giovani e qui la nostra Agnese hanno già intenzione di spatriarsi, e io non saprei cosa dire, la patria è dove si sta bene, e mi pare che si potrebbe far tutto là, dove non c'è cattura che tenga. Non vedo proprio l'ora di saperlo concluso questo parentado, ma lo vorrei concluso bene, tranquillamente. Dico la verità, qui con quella cattura viva, spiattellar dall'altare quel nome di Lorenzo Tramaglino, non lo farei col cuor quieto. Io gli voglio troppo bene, avrei paura di fargli un cattivo servizio. Veda lei, vedete voi altre. Qui parte Agnese, parte la vedova a ribatter quelle ragioni, Don Abbondio a rimetterle in campo sott'altra forma. S'era sempre da capo. Quando entra Renzo con un passo risoluto e con una notizia in viso e dice: è arrivato il signor Marchese. Cosa vuol dire questo? Arrivato? Dove? Domanda Don Abbondio alzandosi. È arrivato nel suo palazzo, che era quello di Don Rodrigo, perché questo signor Marchese è l'erede per fideicommisso, come dicono, sicché non c'è più dubbio. Per me ne sarei contento se potessi sapere che quel povero uomo fosse morto bene. A buon conto, finora ho detto per lui dei paternostri, adesso gli dirò il de profundis. E questo signor Marchese è un bravissimo uomo. Oh, sicuro, disse Don Abbondio, l'ho sentito nominar più di una volta per un bravo signore, davvero, per un uomo della stampa antica, ma che sia proprio vero. Al sagrestano gli crede. Perché? Perché lui l'ha veduto coi suoi occhi. Io sono stato solamente lì nei contorni e, per dir la verità, ci sono andato appunto perché ho pensato qualcosa là si dovrebbe sapere. E più d'uno mi ha detto lo stesso. Ho poi incontrato Ambrogio, che veniva proprio di lassù e che l'ha veduto, come dico, far da padrone. O vuol sentire Ambrogio? L'ho fatto aspettare qui fuori apposta. Oh, sentiamo, disse Don Abbondio. Renzo andò a chiamare il sagrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi e poi se ne andò. Ah! È morto, dunque! È proprio andato! Esclamò Don Abbondio. Vedete, figliuoli, se la provvidenza arriva alla fine certa gente. Sapete che l'è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese, che non ci si poteva vivere con colui. È stata un gran flagello questa peste, ma è anche stata una gran scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figliuoli miei, non ce ne liberavamo più. Verdi, freschi, prosperosi, bisognava dire che chi era destinato a far loro le esequie era ancora in seminario a fare i latinucci. E in un batter d'occhio sono spariti, a 100 per volta. Non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro, con quell'albagia, con quell'aria, con quel palo in corpo, con quel guardar la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto lui non c'è più e noi ci siamo. Non manderà più di quell'imbasciata ai galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete? Che adesso lo possiamo dire. Io gli ho perdonato di cuore, disse Renzo. Oh, e fai il tuo dovere, rispose Don Abbondio. Ma si può anche ringraziare il cielo che ce n'abbia liberati. Ora, tornando a noi, vi ripeto, fate voi quel che credete. Se volete che vi mariti, io son qui. Se vi torna più comodo in altra maniera, fate voi altri. In quanto alla cattura, vedo anch'io che, insomma, non essendoci più nessuno che vi tenga di mira e voglia farvi del male, non è cosa da prendersene gran pensiero, tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso per la nascita del serenissimo infante, e poi la peste ha dato di bianco e di gran cose, la peste, sicché se volete, oggi è giovedì, domenica vi dico in chiesa, perché quel che si è fatto l'altra volta non conta più niente dopo tanto tempo. E poi ho la consolazione di maritarvi io. Lei sa bene che eravamo venuti appunto per questo, disse Renzo. Benissimo, e io vi servirò e voglio darne parte subito a Sua Eminenza. Chi è Sua Eminenza? Domandò Agnese. Sua Eminenza, rispose Don Abbondio, è il nostro cardinale arcivescovo, che Dio conservi. Oh, in quanto a questo mi scusi, replicò Agnese, che sebbene io sia una povera ignorante, le posso accertare che non gli si dice così, perché quando siamo state la seconda volta per parlargli come parlo a lei, uno di quei signori preti mi tirò da parte e mi insegnò come si doveva trattare con quel signore e che gli si doveva dire Vossignoria Illustrissima e Monsignore. E ora, se vi dovesse tornare a insegnare, vi direbbe che gli va dato dell'eminenza. Avete inteso? Perché il Papa, che Dio lo conservi anche a lui, ha prescritto fin dal mese di giugno che ai cardinali si dia questo titolo. E sapete perché sarà venuto a questa risoluzione? Perché l'illustrissimo, che era riservato a loro e a certi principi, ora, vedete anche voi altri, cos'è diventato, a quanti si dà. È come se lo succiano volentieri. E cosa doveva fare il Papa? Levarlo a tutti? Lamenti, ricorsi, dispiaceri, guai. E per di più, continuar come prima. Dunque, ha trovato un buonissimo ripiego. A poco poi si comincerà a dar dell'eminenza ai vescovi, poi lo vorranno gli abati, poi i proposti, perché gli uomini sono fatti così. Sempre vogliono salire, sempre salire. Poi i canonici, poi i curati, disse la vedova. No, no, no, no, no, no, riprese Don Abbondio. I curati? A tirar la carretta? Non abbiate paura che gli avvezzi male i curati, del reverendo fino alla fine del mondo. Piuttosto non mi meraviglierei punto che i cavalieri, i quali sono avvezzi a sentirsi dar dell'illustrissimo, a essere trattati come i cardinali, un giorno volessero dell'eminenza anche loro. E se la vogliono, vedete, troveranno chi gliene darà. E allora il Papa, che ci sarà allora, troverà qualche altra cosa per i cardinali. Orsù, ritorniamo alle nostre cose. Domenica vi dirò in chiesa. E intanto, sapete cosa ho pensato per servirvi meglio? Intanto chiederemo la dispensa per l'altre due denunzie. Hanno a avere un bel da fare laggiù in curia a dar dispense, se la va per tutto come qui. Per domenica ne ho già uno, due, tre, senza contarvi voi altri, e ne può capitare ancora. E poi vedrete, andando avanti, che affare vuol essere. Non ne deve rimanere uno scompagnato. Ha proprio fatto uno sproposito perpetuo a morire ora, che questo era il momento che trovava l'avventore anche lei. E a Milano, signora? Mi figuro che sarà lo stesso. E come? Si figuri che solamente nella mia cura, domenica passata, 50 denunzie. Se lo dico, il mondo non vuol finire. E lei, signora, non hanno principiato a ronzarle intorno dei mosconi? No, no, io non ci penso né ci voglio pensare. Sì, sì, sì, che vorrà essere lei sola. Anche Agnese, veda? Anche Agnese. Ha voglia di scherzare lei? Disse questa. Sicuro che ho voglia di scherzare, e mi pare che sia ora finalmente. Ne abbiamo passate delle brutte, ne vero, i miei giovani? Delle brutte ne abbiamo passate. Questi 4 giorni che dobbiamo stare in questo mondo, si può sperare che vogliano essere un po' meglio. Ma fortunati voi altri che, non succedendo disgrazie, avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati. Io invece sono alle 23:15 e i birboni possono morire. Della peste si può guarire, ma agli anni non c'è rimedio. E come dice, senectus ipsa est morbus. Ora, disse Renzo, parli pur latino quanto vuole, che non me ne importa nulla. Tu l'hai ancora col latino, tu, eh? Bene, bene, t'accomoderò io quando mi verrai davanti con questa creatura per sentirvi dire appunto certe paroline in latino. Ti dirò: latino tu non ne vuoi? Vattene in pace. Ti piacerà? So io quel che dico, riprese Renzo. Non è quel latino lì che mi fa paura. Quello è un latino sincero, sacrosanto, come quel della messa. Anche loro lì bisogna che leggano quel che c'è sul libro. Parlo di quel latino birbone, fuor di chiesa, che viene addosso a tradimento, nel buono d'un discorso. Per esempio, ora che siamo qui, che tutto è finito. Quel latino che andava cavando fuori lì, proprio in quel canto, per darmi ad intendere che non poteva e che ci voleva delle altre cose, che so io. Me lo volti un po' in volgare ora. Sta zitto, buffone, sta zitto. A non rimestar queste cose, che se dovessimo ora fare i conti non so chi avanzerebbe. Io ho perdonato tutto, non ne parliamo più. Ma me ne avete fatti dei tiri. Di te non mi fa specie che sei un malandrinaccio, ma dico quest'acqua cheta, questa santerella, questa madonnina infilzata che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene. Ma già, lo so io chi l'aveva ammaestrata, lo so io, lo so io. Così dicendo accennava Agnese col dito che prima aveva tenuto rivolto a Lucia. E non si potrebbe spiegare con che bonarietà, con che piacevolezza facesse quei rimproveri. Quella notizia gli aveva dato una disinvoltura, una parlantina insolita da gran tempo. E saremmo ancora ben lontani dalla fine se volessimo riferir tutto il rimanente di quei discorsi che lui tirò in lungo, ritenendo più d'una volta la compagnia che voleva andarsene e fermandola poi ancora un pochino sull'uscio di strada, sempre a parlar di bubbole. Maria Paiato ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.